Capitolo 29. Münster, 9 febbraio 1534. Mattina. Mi sveglia la raffica di colpi sulla porta. Distinto, la mano sotto il materasso, l'elsa della daga. Gert, Gert, alzati Gert, muoviti! Il sonno rincula, colpendomi in mezzo agli occhi. Ma che cazzo? Gert, siamo nella merda, svegliati! Caracollo giù dal letto, cercando di mantenere l'equilibrio. Chi è? Sono Adrianson! Muoviti! Stanno correndo, tutti in piazza! Mentre infilo le braghe e agguanto la vecchia giubba, penso già al peggio. Che succede? Apri! Dobbiamo andare al municipio! Pronuncia l'ultima parola mentre gli spalanco la porta in faccia. Devo sembrare un fantasma, ma il freddo acuisce i sensi in pochi istanti. Il maniscalco Adrianson non ha l'aria gioviale con cui è solito animare le nostre discussioni serali. Il fiato grosso. Red Decker ha portato in piazza un forestiero appena arrivato. Dice che Adan Marsh ha visto il vescovo che radunava un'armata. 3.000 uomini stanno per piombarci addosso, Gert. Una stretta allo stomaco. Anziché Necchi? Muoviti, andiamo. Red Decker vuole interpellare i borgomastri. Ma sei sicuro? Chi è il forestiero? Non lo so, ma se quello che dice è vero, ci assedieranno presto. Nel corridoio busso la porta di fronte. Jan, svegliati, Jan. Apro la porta, che nonostante consigli il mio compare di Leida non chiude mai a chiave. Il letto è intatto. Sempre a fottere in qualche fienile. Il maniscalco mi trascina giù per le scale. Quasi cado in fondo alla rampa. Adrianson mi precede per la strada. Ha nevicato tutta la notte. La fanghiglia schizza dagli stivali. Qualcuno mi manda a fanculo. Di corsa, fino alla piazza centrale. Un prato bianco. In mezzo, la massa scura della cattedrale sembra ancora più grande. L'agitazione serpeggia tra i capannelli raccolti sotto le finestre del municipio. Il vescovo vuole entrare in città in armi. Col cazzo! Dovrà passare sul mio cadavere. È stata quella puttana della badessa a chiamarlo. Con le nostre tasse, quel bastardo paga un esercito per fotterci. No, no, quella grantoia della badessa di Huberwasser è per la storia delle novizie. Nonostante il gelo, almeno 500 persone sono affluite in piazza sull'onda della notizia. Dobbiamo difenderci, ci servono le armi. Sì, sì, sentiamo il borgomastro. Scorgo Red Decker in mezzo a una trentina di persone. Aria spavalda di chi vuol dire la sua contro il parere di tutti. 3.000 armati! Sì, sono alle porte della città! Basta salire sul cassero della Judfeldel Tor per vederli. Sento un colpo sulla spalla. Mi giro. Red Decker contro tutti. Palla di neve in mano. Qualcuno deve aver cercato di zittirlo. Il trambusto cala improvvisamente. Sguardi verso l'alto. Il borgomastro Tilbeck è alla finestra del municipio. Esplode una raffica di proteste. L'esercito del vescovo marcia sulla città! Qualcuno l'ha fatta sporca! Ci hanno venduti a Von Waldeck! Dobbiamo difendere le mura! La badessa! Incarcerate la badessa! Ma che badessa! Vogliamo i cannoni! I capannelli si sciolgono in una calca generale. Sembrano ancora di più. Tilbeck, impettito, si allarga ad abbracciare l'intera piazza. Gente di Münster, non perdiamo la calma! Questa storia dei 3.000 uomini non ha ancora alcuna conferma. Cazzo, li hanno visti dalle mura! Sì, sì, c'è uno che viene da Hamarash. Stanno venendo qua! Il borgomastro non si scompone. Scuote la testa e con un gesto serafico fa cenno di calmarsi. State tranquilli, manderemo qualcuno ad appurare. La folla si scambia sguardi spazientiti. Esercito no! Il vescovo Von Waldeck mi ha dato personalmente tutte le garanzie che non violerà i privilegi municipali. Münster rimarrà una città libera. Si è impegnato personalmente. Non mostriamo di aver perso la testa. È il momento di essere responsabili. Münster deve dimostrarsi all'altezza della sua antica tradizione di convivenza civile. In un momento in cui tutti i territori confinanti sono sconvolti da guerre intestine subbugli, Münster è chiamata a essere l'esempio di come... La pallata lo centra in piena faccia. Il borgomastro si accascia sul davanzale, sommerso da una bordata di insulti. Uno dei consiglieri lo aiuta a sollevarsi. Il sangue cola dallo zigomo spaccato. La neve doveva nascondere qualcos'altro. C'è una sola persona, in tutta Münster, con una mira del genere. Tilbeck batte in ritirata, inseguito dalle grida dei più infuocati. «Venduto, venduto! Tilbeck, sei una troia!» Te e tutti i tuoi amici luterani. Che cazzo vuoi? Se non fosse per voi maledetti anabattisti, von Waldeck non alzerebbe un dito contro la città. Bastardi, lo sappiamo che siete d'accordo col vescovo. Qualcuno si spintona. Volano le prime mazzate. Redeker è ancora da solo. Gli altri sono in tre, tutti ben piantati. Non sanno contro chi si sono messi. Il più grosso sferra un pugno all'altezza della faccia. Redeker si abbassa, lo prende sull'orecchio, caracolla indietro e sferra un calcio in mezzo alle gambe. Il luterano si piega in due, le palle in gola. Ancora una ginocchiata sul naso e i due compari gli tengono stretto Redeker che scalcia come un mulo impazzito. Il grosso lo colpisce allo stomaco. Non gli do il tempo di replicare. Una mazzata a due mani sulla nuca. Quando si gira, i pugni volano in serie contro il suo naso. Casca seduto. Mi volto. Redeker si è liberato dalla presa degli altri due. Schiena contro schiena, ci difendiamo dall'attacco. A chi è venuta in mente la storia dei 3.000 cavalieri? Sputa l'avversario e mi dà di comito. Chi ha detto che sono cavalieri? Quasi mi scappa da ridere, mentre ci avventiamo ognuno sul suo. Ma la rissa è ormai generale, ci travolge. Da dietro la cattedrale spunta un drappello di 50 uomini, i tessitori di Sant'Egidio, appassionati dei sermoni di Rothman. In un attimo i luterani sono nell'angolo opposto della piazza. Redeker, più figlio di puttana che mai, mi guarda con un ghigno. Meglio della cavalleria. D'accordo, e adesso che facciamo? Dalla piazza del mercato il suono delle campane di San Lamberto, come un richiamo. A San Lamberto, a San Lamberto! Di corsa, fino alla piazza del mercato. Invadiamo i banchetti sotto gli sguardi attoniti dei commercianti. Il vescovo sta entrando in città! 3.000 soldati! I borgomastri e i luterani sono in combutta con von Waldeck! Tra le bancarelle, gli arnesi del lavoro quotidiano diventano armi. Martelli, accette, fionde, vanghe, coltelli. In un batter d'occhio, le bancarelle stesse diventano barricate che bloccano ogni accesso alla piazza. Qualcuno ha tirato fuori gli inginocchiatoi da San Lamberto a rafforzare quelle mura improvvisate. Redeker mi agguanta nella confusione. Quelli di Sant'Egidio hanno portato 10 balestre, 5 archibugi e 2 barili di polvere. Vado dall'armaiolo Wesel a vedere cosa posso rimediare ancora. Io vado da Rothman, bisogna portarlo qui. Ci lasciamo senza perdere altro tempo, rapidi, saettando tra la rabbia dei popolani. Nella canonica di San Lamberto ci sono anche Knipperdolling e Kippenbrock. Sono seduti al tavolo, corrucciati. Balzano in piedi tutti e tre quando mi vedono entrare. Gert, per fortuna, che diavolo sta succedendo? Squadro il predicatore dei Battisti. Un'ora fa è arrivata la notizia che von Waldeck ha armato un esercito per marciare sulla città. I due rappresentanti delle gilde sbiancano. Non so quanto ci sia di vero. La notizia deve essersi ingigantita strada facendo, ma di certo non è uno scherzo di carnevale. Knipperdolling. Ma stanno tirando giù tutto. Hanno suonato le campane, ho visto svuotare la chiesa. Tilbeck si è sputtanato davanti a tutti. Può darsi che i luterani abbiano preso accordi con von Waldeck. La gente è inferocita. Gli operai tessili sono giù in piazza. Hanno eretto barricate. Rothman, sono armati. Kippenbrock dà un calcio al pavimento. Merda, sono impazziti tutti quanti. Rothman tamburella nervoso le dita sul tavolo. Deve decidere il da farsi. Redeker è andato a cercare altre armi. I luterani potrebbero tentare di farci fuori per consegnare la città al vescovo. Knipperdolling dondola il pancione stizzito. Quel tagliagole del cazzo. Solo lui poteva esserci dietro questa storia. Ma non gli hai detto che rischia di mandare a monte tutto quello che abbiamo fatto? Se arriviamo allo scontro armato, ci siamo già, amico mio. E se adesso non andate dietro a quelle barricate, rimarrete tagliati fuori. E la gente proseguirà da sola. Dovete esserci. Un lungo istante di silenzio. Il predicatore mi guarda dritto negli occhi. Credi che il vescovo abbia deciso di rompere gli indugi? È un problema che ci porremo dopo. Adesso ci vuole qualcuno che gestisca la situazione. Rothman si gira verso gli altri due. È successo prima di quanto immaginassi. Esitare adesso comunque sarebbe fatale. Andiamo. Scendiamo nella piazza. Sono almeno 300, uomini, donne e vocianti dietro le barricate. Gli arnesi da lavoro trasformati in lance, mazze, alabarde. Redeker spinge un carretto coperto da una tenda di tela verso il centro della piazza. Quando la solleva, le lame luccicano al sole invernale. Spade, asce, oltre a un paio di archibugi e una pistola. Le armi vengono distribuite. Tutti vogliono avere qualcosa in mano per difendersi. Passo svelto. Spada e pistola in cintura. L'ex mercenario Henry Gresbeck ci viene incontro. I luterani hanno il deposito di armi a Uberwasser. Le stanno portando alla piazza centrale. Ci scruta, come in attesa di un ordine da parte mia o di Rothman. Il predicatore afferra un banchetto del mercato e lo trascina nel mezzo, saltandoci sopra. «Fratelli, noi non vogliamo fomentare il conflitto fratricida tra gli abitanti di questa città. Ma se c'è qualcuno che non capisce che il vero nemico è il vescovo von Waldeck, allora toccherà a noi difendere la libertà di Münster da chi la minaccia. E chiunque si unisca in questa battaglia di libertà non soltanto godrà della protezione che l'Altissimo riserva ai suoi eletti, ma potrà anche attingere al fondo di mutua assistenza che da questo momento viene messo a disposizione della difesa comune». Un boato d'acclamazione. «Il faraone d'Egitto è là fuori e aspira a tornare per renderci nuovamente suoi schiavi, ma noi non glielo permetteremo. E Dio sarà con noi in questa impresa. Dice infatti il Signore, cadranno gli alleati dell'Egitto e sarà battuto l'orgoglio della sua forza. Da Migdol fino ad Assuan cadranno di spada. Parola del Signore Dio. Sapranno che io sono il Signore quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi sostenitori saranno schiacciati». I cuori si innalzano in un'eccitazione unanime. Il popolo di Münster ritrova il suo predicatore. L'imponente Knipper Dolling e Kippenbrock il Rosso si aggirano tra i capannelli dei tessitori. Il grosso della corporazione più organizzata e numerosa è già lì. Gresbeck mi prende da parte. «Sembra che siamo alla resa dei conti». Un'occhiata alle spalle. «Sai di che cosa hanno bisogno?» Annuisco. «Raduna i 30 più in gamba, davanti alla chiesa, gente che conosca bene la città e con pochi scrupoli». Raggiungiamo Redeker, che ha finito di vuotare il carretto. «Fai 3 squadre, di 4 uomini ciascuna, e mandale di ronda dalle parti di Uberwasser. Voglio un rapporto ogni ora sugli spostamenti dei luterani». Il piccoletto guizza via. A Gresbeck. «Io devo potermi muovere. Il comando della piazza è tuo. Che nessuno prenda iniziative avventate e che non possano coglierci di sorpresa. Fai presidiare le barricate, metti una vedetta sul campanile della chiesa. Quanti archibugi abbiamo?» 7. 3 di fronte alla chiesa e 4 davanti all'ingresso della piazza centrale. Sparsi in giro servirebbero a poco». Gresbeck. «E tu che fai?» «Devo capire qual è il campo di battaglia e chi tiene le postazioni». Redeker, esaltatissimo, sta radunando gli uomini. Mi vede. Alza una pistola gigantesca e urla: «Rompiamogli il culo!» La ricognizione sulle mura è stata rassicurante. A vista d'occhio non c'è traccia dei 3.000 mercenari annunciati. La seconda ronda viene a dire che i luterani hanno piazzato degli uomini armati d'archibugio sul campanile della cattedrale e da lì dominano la piazza del municipio, il cui ingresso è sbarrato da 2 carri messi di traverso, esattamente di rimpetto alla nostra barricata. Dietro i carri non più di 10 luterani, ma ben armati e riforniti da Uberwasser. In caso di attacco non avrebbero alcun bisogno di risparmiare le pallottole. Noi invece dobbiamo fare con quello che abbiamo. I colpi sono contati. La piazza del mercato, in cui siamo asserragliati, è facilmente difendibile, ma può rivelarsi anche una trappola. Bisogna girarli, chiudere i ponti sulla A e isolare la piazza del municipio dal monastero. «Redeker, 10 uomini e 2 archibugi. Andiamo a chiudere il ponte di Nostra Signora dietro la piazza, subito!» Usciamo dal presidio a sud della nostra roccaforte. Percorriamo velocemente il primo tratto, nessuno in vista. Poi la strada si biforca. Dobbiamo andare a destra, seguire la curva che porta al primo portone sul canale. Ci siamo, il ponte è lì davanti. Un colpo d'archibugio scheggia il muro a 1 metro da Redeker, che cammina in testa. Si gira. «I luterani!» Vengono giù da una stradina stretta, che conduce alla piazza centrale. Altre archibugiate. «Via, via!» Mentre risaliamo la strada, ci inseguono urla e tramestio. «Gli anabattisti, eccoli là, scappano!» All'altezza di Sant'Egidio ci fermiamo. Urlo a Redeker. «Quanti ne hai visti?» 5, 6 al massimo. Li aspettiamo qui. Quando spuntano dalla curva, facciamo fuoco». Colpi in canna. I 2 archibugi, la mia pistola e quella di Redeker. Saltano fuori a 10 passi. Ne conto 5, non se l'aspettavano. Rallentano, mentre le nostre armi fanno fuoco all'unisono. Uno viene colpito alla testa e va giù, stecchito. Un altro si ribalta indietro, ferito alla spalla. Partiamo all'assalto e quelli arretrano scomposti, trascinandosi dietro il ferito. Dalla curva ne spuntano altri. Alcuni si infilano in Sant'Egidio. Ancora spari e poi l'impatto. Paro un colpo con la daga e il manico della pistola spacca la testa del luterano. C'è un casino d'inferno. Altri colpi. Via, Gert! Sparano dal campanile! Via! Qualcuno mi afferra da dietro. Corriamo come pazzi con le pallottole che ci fischiano intorno. Da qui non si passa più. Raggiungiamo le nostre barricate e ci infiliamo dentro. Subito a contarsi. Ci siamo tutti, più o meno interi. Se si escludono un taglio di spada sulla fronte che avrà bisogno di un rattoppo, una spalla slogata per il rinculo dell'archibugio e una buona dose di paura per tutti. Redeker sputa a terra. Figli di puttana, prendiamo un cannone e facciamogli crollare Sant'Egidio sulla testa. Lascia perdere, è andata a buca. Knipper Dolling e alcuni dei suoi ci corrono incontro. Ehi, ci sono dei feriti? Qualcuno si è fatto ammazzare? No, no, per fortuna, ma c'è una testa che avrebbe bisogno di una ricucita. Non ti preoccupare, cucire è il nostro mestiere. Il ferito viene preso in consegna dai tessitori. In nostra assenza, nel mezzo della piazza, dove stavano i banchetti dei venditori, è stato allestito un fuoco per cucinare il pranzo. Alcune donne girano un vitello allo spiedo. E quello? Da dove salta fuori? Una donna grassa e rubiconda, che trasporta stoviglie, mi scosta sgomitando. Gentilmente offerto dal munificentissimo consigliere Wöderman. I suoi staglieri non hanno voluto accettare i nostri soldi, così ce lo siamo preso. Con le buone, sghignazza contenta. Scuoto la testa. Ci mancava solo che ci mettessimo a cucinare. La grassona posa giù il carico. Le mani sui fianchi e l'aria di sfida. E come vorresti sfamare i tuoi soldati, capitano Gert? Col piombo? Senza le donne di Muster saresti perduto, te lo dico io. Mi giro verso Redeker. Capitano? Il bandito alza le spalle. Sì, capitano. La voce di Rotman ci raggiunge da dietro. È insieme a Gresbeck. Hanno delle pergamene in mano. Il predicatore ha l'aria di chi non vuole perdere tempo in spiegazioni. E Gresbeck è il tuo luogotenente. Avverte l'agitazione immediata di Redeker, che allunga il collo tra di noi per farsi notare. Subito viene rassegnato. E Redeker il secondo. È andata male. Volevo girare la piazza. Ci hanno presi di sorpresa prima che passassimo il canale. Le ronde dicono che se ne stanno asserragliati con le armi a Uberwasser. Il borgomastro Judenfeld è con loro insieme alla maggior parte dei consiglieri. Tilbeck no. Sono una quarantina. Non credo che tenteranno di attaccarci. Stanno sulla difensiva. Hanno un cannone nel cimitero del convento e l'edificio è imprendibile. Sbuffo fuori la tensione. E adesso? Rotman scuote la testa. Se il vescovo ha veramente radunato un esercito, le cose potrebbero mettersi molto male. Gresbeck mi srotola le pergamene davanti. Dai un'occhiata qui, intanto. Abbiamo rimediato delle vecchie mappe della città. Possono esserci utili. Il disegno non è preciso, ma sono segnati anche i passaggi più stretti e tutti gli anfratti della A. Ottimo! Vedremo se ci suggeriscono qualcosa. Adesso però c'è una cosa da fare. L'idea me l'ha data Redeker. Tiriamo giù dalle mura un cannone. Un pezzo piccolo, non troppo pesante, che possa essere facilmente trasportato fin qui. Gresbeck si gratta la cicatrice. Ci vorrà un argano? Procuralo. 7 archibugi servirebbero a poco se dovessimo resistere a un attacco. Prendi gli uomini che ti servono, ma vedi di portarlo giù al più presto. Il tempo passa, e quando comincia a fare scuro sarà meglio essere ben protetti. Rimango solo con Rotman. Sulla faccia del predicatore un'aria d'ammirazione che si trasforma quasi in rimbrotto. Sei sicuro di quello che stai facendo? No. Qualsiasi cosa pensi Gresbeck, non sono un soldato. Isolare quelli che stanno sulla piazza mi sembrava l'idea giusta, ma evidentemente hanno organizzato dei drappelli che battono le strade tutt'attorno. Si coprono il culo, i bastardi. Tu hai già combattuto, non è vero? Un ex mercenario mi insegnò a destreggiarmi con la spada, molti anni fa. Ho combattuto con i contadini, ma ero un ragazzo. Annuisce deciso. Fa tutto quello che credi debba essere fatto. Saremo con te e che Dio ci assista. In quel momento, dietro la spalla di Rotman, compare in fondo alla piazza Jan di Leida. Ci scorge anche lui. Si avvicina. Un'espressione quasi divertita. Era ora! Dove ti eri cacciato? Muove la mano su e giù, in un gesto allusivo. Sai com'è? Ma che è successo? Abbiamo preso la città? No, puttaniere del cazzo. Siamo asserragliati qui. Là fuori ci sono i luterani. Segue il mio gesto e si infervora. Dove? Gli indico la barricata che fronteggia i carri all'ingresso della piazza centrale. Laggiù. Sono là dietro? Esatto. E guarda che sono armati fino ai denti. Riconosco lo sguardo del mio santo pappone. È quello delle grandi occasioni. Sta attento, Jan. È già tardi. Si sta incamminando verso le nostre difese. Non ho tempo di pensare a lui. Devo andare a istruire le ronde. Ma mentre sto parlando con Redeker e Gresbeck, con la coda dell'occhio vedo Jan che si avvicina ai difensori della barricata. Che cazzo si sarà messo in testa? Mi tranquillizzo quando lo vedo sedersi a tirar fuori di tasca la Bibbia. Ecco, bravo, leggi qualcosa. La mappa di Munster ci mostra quali percorsi si potrebbero tentare per aggirare le postazioni dei luterani. Redeker dà una serie di consigli. Quali sono le zone più esposte? Quale caseggiato potrebbe coprire un'eventuale azione d'avvicinamento? Ma ogni congettura si arresta davanti all'imprendibilità di Huberwasser. Un conto è stato far uscire le novizie, ben altro è strapparlo a 40 uomini armati. Improvvisamente il trambusto ci raggiunge dall'altro lato della piazza. Merda, il tempo di lanciare un'occhiata verso le nostre difese e vedo Jan di Leida ritto in piedi sulla barricata con le braccia aperte. Che cazzo sta facendo? Corri, Gert! Quello si fa ammazzare! Jan! Mi precipito, attraverso la piazza. Quasi travolgo il vitello allo spiedo. Inciampo, mi rialzo. Jan, vieni giù, pazzo! La camicia aperta mostra il petto glabro a chiamare i colpi. Gli occhi fiammeggiano verso i carri luterani. Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. Ti giudicherò secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze, luterano immondo. Vieni giù, Jan. Potrei essere invisibile. E non si impietosirà il mio occhio e non avrò compassione, ma ti riterrò responsabile della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze. Saprai allora chi sono io, il Signore, colui che colpisce. Hai capito, grande figlio di una troia luterana? Le tue pallottole non possono farmi nulla. Rimbalzeranno su questo petto e ti torneranno indietro, perché il Padre è in me. Egli può ingoiarle e sparartele fuori dal culo quando vuole, dritte in faccia. Jan, per Dio! Se ne sta lì dritto, con la bocca spalancata, a emettere un suono spaventoso. Poi il biondo leidano pazzo alza il volto al cielo. Padre, ascolta questo figlio. Esaudisci il tuo bastardo. Spazza via dal selciato queste merde di cane. Hai sentito, luterano? Cagati addosso. Affogherai in uno sputo di Dio e il regno sarà per noi. Banchetteremo coi santi sul tuo cadavere. L'archibugiata esplode impietrendo Jan. Per un istante penso che l'abbiano colpito. Si gira verso di noi. Dall'orecchio destro gli cola un rivolo di sangue, gli occhi spiritati. Si lascia cadere giù e lo prendo il volo, prima che sbatta per terra. Sviene. No, si riprende. Gert! Gert! Ammazzalo! Gert, ammazzalo! Mi ha quasi staccato un orecchio! Dammi la pistola che lo devo ammazzare! Ti prego, dammela, sparagli, Gert! Sparagli o lo faccio io! È laggiù, lo vedi? È là, Gert! La pistola! Mi ha rovinato! Lo lascio accasciare contro il muro e dico due parole ai nostri difensori. Se ci riprova, legatelo.